Stai attenta, ha avuto tutto inizio in questa stanza. Non perdere di vista neanche l'ombra e fermati un momento a quel che sembra. A volte tutto quello che abbastanza. Non chiederti se qui qualcosa è persa tra quello che uno vede e che uno pensa. Stai attenta, stai attenta almeno a te. Attenta, stai attenta che mi uccidi in questa stanza. E un bacio non conosce l'innocenza. E sei colpevole di questa notte lenta proprio come me. Pazienza, ricordati degli angoli di bocca, sono l'ultimo regalo in cui ti ho persa. Stai attenta, stai attenta almeno a te. Non dà la colpa a me, la colpa a me. Se tutto è bellissimo, se sembra sabbia contro un cielo che si innalza altissimo intorno a noi, bellissimo. Attenta, stai attenta, attenta che si muove questa stanza. Se chiudi gli occhi un treno è già in partenza. Un passeggero perde, sai, con poco la pazienza come me, che resto senza. Il cuore l'ho copiato ad una stronza. Non fare caso a questa impertinenza. Stai attenta, stai attenta almeno a te. La colpa a me, la colpa a me. Tutto è bellissimo, c'è come un miracolo. Se anche il pavimento sembra sabbia contro un cielo che si innalza altissimo intorno a noi, bellissimo. Attenta, stai attenta, attenta, attenta. È bellissimo, è bellissimo. Intorno a noi, bellissimo, attenta.